Allora, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, siamo sempre noi quelli di Blu Radio Veneto. Buona serata a tutti, sono le 21 e 3 minuti primi di oggi, martedì 12 luglio del 2011. Io sono Flavio Bilato e con me c'è anche in questa serata Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Nel caldo ma ci siamo sempre, noi Rockwave. Chiaramente The Show Must Go On, lo spettacolo deve sempre continuare, anche col caldo. Benissimo, e anche col caldo, quindi ospiti tanto per rallegrare e riscaldare i nostri studi. Quindi diamo il benvenuto a chi ci è venuto a trovare. Sono in 3 su 5, vorrei dire quasi abbiamo fatto un terno sulla nostra schedina, perché adesso vi spieghiamo subito perché sono in 3 e invece dovevano essere 5. Diamo il benvenuto al triste colore rosa. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera a buonasera. Voi. Buonasera. Allora, fatto buon viaggio innanzitutto? Buonissimo, grazie. Bene. Allora, triste colore rosa, ci vengono a proporre un loro CD che già da un po' di tempo che si sta facendo ascoltare da solo, perlomeno lo abbiamo conosciuto appunto dal passaparola classico che c'è su Facebook e su altre forme di comunicazione, e ne siamo rimasti positivamente stupiti, quindi già vi faccio i complimenti all'inizio. Allora, un album che si intitola Scomparire in 11 semplici mosse, quindi un titolo davvero curioso, ma veniamo a quello che è la domanda principale, quella che non vi avrà mai fatto nessuno, assolutamente no, quindi sia Francesco che anche Francesco e Ottavia confermano che non vi hanno mai chiesto il perché vi chiamate Triste Colore Rosa. Non sempre c'è bisogno di un perché. Forse in questo caso Triste Colore Rosa era qualcosa che suonava bene. È un sono 3 parole che abbiamo estrapolato da una poesia di Ungaretti. Ci piace l'idea di avere a che fare con la poesia. Ungaretti era perfetto in questo senso, e Triste Colore Rosa era un nome che ci suonava bene. Curioso, sì. Il punto giusto è abbastanza... Tra altre cose, siamo giusto in luglio e di luglio si intitolava la poesia. Bravissimo. Di Ungaretti, che recitava: quando su ci si butta lei, si fa d'un triste colore di rosa il bel fogliame. È lì l'origine di tutto. Eccola, benissimo. Purtroppo nessuno è mai riuscito a terminare il programma di italiano in tempo per studiare appieno anche l'Ungaretti, però voglio dire, non è solo musica questa serata, ma è anche cultura. Abbiamo già citato un nostro importante esponente italiano delle poesie e non solo, quindi Ungaretti. Ma allora, triste colore rosa, allora c'era un perché, anche se il perché non deve esserci. E adesso un'altra spiegazione del perché scomparire in 11 semplici mosse. C'è forse qualche riferimento alle tracklist? Beh, sicuramente, 11 ovviamente sono le canzoni. Diciamo che il titolo si rifà a un fantomatico manuale della perfetta sparizione, che in realtà è un po' la metafora della fruizione musicale, no? Scomparire nel godere di un'opera che può essere un'opera musicale piuttosto che un'altra opera d'arte. Che non è Houdini in questo caso a scomparire. Anzi, penso che chiunque sia appassionato di musica sa di cosa sto parlando nel momento in cui ascolta una canzone che gli piace tantissimo. Quindi il nostro auspicio era quello appunto che gli ascoltatori scomparissero all'interno della fruizione di quello che è la nostra musica. Ovviamente le 11 mosse sono le 11 canzoni che compongono la tracklist del nostro CD. Certo, e anche quando il gruppo non ci sarà più in questa serata, l'importante è che vada avanti la musica, che è il messaggio importante che voi state dando. Assolutamente, come diceva Ligabue, la musica non tradisce mai. Magari chi la crea la può tradire, ma la musica non lo farà mai. Certo, non lo farà mai per il senso che è musica, effettivamente. Bene, allora noi per, diciamo, per entrare nel pieno della nostra trasmissione, facciamo subito ascoltare un pezzo del vostro disco e quindi segnaliamo quella che è la prima mossa per scomparire, ovvero la traccia numero 3 del vostro lavoro che si intitola Madame Karenina e poi lo commentiamo insieme. Qui insieme ai Triste Colore Rosa che sono venuti a trovarci sono Ottavia, Francesco, mentre a distanza salutiamo anche Giuseppe ed Enrico che sicuramente saranno da casa ad ascoltarci. Sicuramente, un saluto a loro. Benissimo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati anche quella che è la prima traccia del lavoro che ci stanno proponendo i Triste Colore Rosa, che sono qui con noi in questa serata su Blu Radio Sera. E Scomparire in 11 semplici mosse. Noi ci siamo ascoltati questa prima caratteristica melodia, Madame Karenina. Una storia di questa bellissima aristocratica, diciamo così, che era un po' in lotta tra quella che era la fedeltà coniugale e quella che invece era la sua grande passione amorosa. E poi, insomma, non diciamo nient'altro all'ascoltatore che deve ancora leggersi questo romanzo di Leone Tolstoi, formato da circa 700 sì, pagine, circa, mi sembrano, no? Quindi... no, questo pezzo non dura sì. 700, non è lungo come 700 pagine. Beh, musicalmente però un pezzo abbastanza oscuro. Abbiamo sentito un carillon. Il carillon dà gioia, sì, ma dà gioia poi che sviluppa una profondità poi alla fine. Francesco mi parlava di noise. Sì, è vero, c'è del noise, però non è noise così profondo, così compatto. È un noise addolcito, possiamo dire così, Francesco. Sì, beh, però il carillon è comunque un che di molto malinconico. Certo, un po' decadente, possiamo dire. Un po' decadente, mm. Esatto, ci stava benissimo con l'immagine di un personaggio attuale però antico. Cioè, certo. E come anche era. Musicalmente l'incastro è ideale così, deve essere stato fatto esattamente. Così. Esattamente. Io ho letto la vostra biografia, cominciate i primi presupposti musicali del 2005, un presupposto musicale ruvido, poi le cose sono leggermente cambiate, Francesco Ottavia e Francesco 1, Francesco 2, beh, i due Franceschi, che facciamo così. Poi leggermente le cose sono cambiate, la formazione si è allargata ed è arrivata la formazione di adesso praticamente. Però cominciate dal rock ruvido, quello è il vostro emblema. Poi giustamente in un'intervista tu hai detto che è il gruppo che fa l'arrangiamento, la musica della band, noi le diverse componenti. Vai Francesco 2, dai. O Francesco 1. Memoria storica del gruppo. Francesco il bassista in questo caso. Sì. Sì, generalmente c'è una persona che porta un'idea che viene sviluppata completamente dal gruppo, dall'insieme, con delle difficoltà anche, perché non è mai facile comunque coniugare tante idee diverse, visto comunque le nostre precedenti esperienze. Che sono variegate, possiamo dire questo. Sono variegati. E quindi... i pezzi nascono da un lavoro di gruppo proprio. Ma è la vostra forza questo qua, questa amalgama delle diverse concezioni musicali. Sì, si può dire così. Si può dire così. Secondo me sì, è importante. 11 pezzi che nascono anche da diverse discussioni giuste, anche colorazioni diverse, però arrivano poi a un risultato effettivo. La nostra speranza è che emerga una certa personalità, insomma, abbastanza... è abbastanza caratterizzante di quello che è il progetto, al di là delle varie influenze dal quale proprio la musica parte, insomma. Come dicevi tu prima, l'importante è che si percepisca proprio l'unitarietà, insomma. Esattamente, che sia vostro, cioè l'unitarietà di un disegno che poi si sviluppa, ma che deve sentirsi in questa maniera. Esatto. Quindi c'era un disegno di rivoluzione anche in questa canzone, non solamente da Anna Karenina, che insomma è stata rivoluzionaria a suo modo, del suo modo di pensare, ma anche quella che è la vostra musica, quella che proponete, è stata una rivoluzione dal 2005 al 2010. Come l'avete intesa questo passaggio? L'abbiamo sicuramente inteso come un passo in avanti. Penso che negli ultimi due anni il gruppo abbia fatto veramente un salto di qualità rispetto a quello che era la musica e la personalità degli inizi. Madame Karenina, come dici tu, è un po' lo specchio di questa cosa. Tra l'altro è un brano, come molti di questo disco, che vengono dal vecchio repertorio e che è stato riarrangiato con le nuove influenze, con i nuovi membri del gruppo, e insomma è una sorta, sono brani in trasformazione questi. Anche perché il vostro gruppo è sempre in continua trasformazione, da quello che ho letto non dico che è un collettivo, ma è un gruppo che si forma per fare della musica. Spiegalo meglio tu, Francesco, come... Non è un collettivo, nel senso che comunque ha dei membri ben definiti, però è aperto assolutamente alle collaborazioni e tutti coloro che possono portare un qualcosa di positivo che ci permetta di fare dei passi avanti è sempre il benvenuto. Ecco. E questo discorso che tu hai fatto si contagia anche nelle esibizioni live, vero? Non è così? Avete suonato con un sacco di gente, avete partecipato a festival dove c'erano un sacco di band. Citiamo i vostri amici Marta su YouTube, che è un gruppo molto interessante, un indie decisamente nuovo, innovativo. Quindi anche quello è importante, scambiarsi i pareri, cosa dici Francesco? Assolutamente, abbiamo avuto l'onore e la fortuna di aprire delle realtà molto molto importanti come appunto i Marta su YouTube soprattutto, ma anche Marlene Kunz, Lambator, Molteni, Niccolò Fabi, sì, Niccolò anche Fabi. Di estrazione molto diversa, però vi assicuro che da tutti c'è stato da imparare qualcosa. Benissimo. Assolutamente. Bene, allora, visto che abbiamo parlato delle vostre esperienze live, vediamo di sistemare un'altra esperienza live, esatto. Quella vostra all'interno della nostra programmazione serale. Quindi diamo il benvenuto anche ai vostri strumenti, quindi Ottavia accompagnata dalle tastiere, ancora Francesco con la chitarra e Francesco col basso. Insieme formano Triste Colore Rosa. Cosa ci proponete? Vi proponiamo il brano che apre il disco, che si intitola Io di fronte a me, ed è un brano che parla dell'incontro col sé. Vieni un po' qui, lasciati guardare. Gli occhi che ti vedono sono quelli che mi stanno osservando, e non parlare finché non saprò cosa poterti dire, non so cosa dire. Vorrei sentire, non mangio nulla per non dartene il sapore e nemmeno l'odore. Potrei toccarti per capire se sei mio, sei solo male a me. Se sei mio, sei solo male a me. Se sei mio, sei solo male a me. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, abbiamo ascoltato dal vivo Io e di fronte me. Quindi è un concetto molto molto complesso da digerire, molto filosofico, Francesco. Abbastanza, sì. Quindi diciamo Io e di fronte me. Quindi ci stiamo guardando allo specchio? Un specchio dentro, uno specchio fuori. Ci stiamo guardando. Musicalmente l'hai attaccata bene, cioè hai dato un quid, un input ideale per gli altri due tuoi colleghi e via. Una chitarra acustica che sembrava elettrica, avrebbe una forza notevole, un intreccio quasi elettrico, il basso di Francesco la seguita e Ottavia che ha colorato con la tastiera. Il pezzo iniziale doveva essere un pezzo che dà un certo risalto, doveva scuotere la platea che ascolta ed è stato così secondo me. Grazie, bene. Era quello che volevamo ottenere. Benissimo. L'altra cosa, ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa non è solamente una trasmissione da ascoltare, ma è anche da vedere. Per farlo è molto semplice, vi collegate tramite naturalmente il vostro computer al nostro sito internet bluradioveneto.it, poi cliccate sull'immagine riservata ai Triste Colore Rosa e subito vi trovate di fronte a due opzioni, quella da ascoltarla via audio, quindi con lo streaming audio, e quella per vedere anche la parte del video con le inquadrature dei nostri ragazzi che sono venuti qui stasera. Anzi, colgo ancora l'occasione per ringraziarli ancora una volta della loro presenza. Faccio velocissimamente tre saluti alla Rossella, che tu ben conosci, sì, che ogni mattina mi fornisce la stampa quotidiana. E salutiamo anche l'Elena, che grazie a lei stasera siamo venuti qua, e il nostro direttore artistico Alberto Prisco, grande nostro che coordina tutte le nostre band praticamente. Bene, allora ragazzi, io vedo la copertina è davvero particolare, perché oltre a essere molto molto ricercata in tutto, c'è questo, è fatto quasi da un tappezziere più che da, sì, più che da un grafico, nel senso che si vede presentato un divano dove all'inizio si vede solo la scritta scomparire in 11 semplici mosse, e poi invece dentro troviamo tante schede che sembrano quasi un campionario per come scegliere appunto la rivestitura di un divano, ma in realtà nascondono, oltre i vostri corpi, i vostri fisici, ecco, in questo caso, anche un divano che a quanto pare cambia spesso di casa, o ce l'avete tutti e cinque uguale, o è lo stesso divano che ha le ruote sotto. Come... chi ha avuto l'idea di fare questa copertina così, diciamo, proprio particolare? È venuta così, durante una cena, ma più cene direi. Ah, più cene. Sì, dello sviluppo di varie idee. con la tavolata davanti, esatto. Allora le idee si sviluppano meglio, sì, mangiando. Decisamente. Quindi, poi con un bicchiere di vino in più si sviluppano e come? Esattamente. con molto successo sicuramente. Ma comunque è una copertina che si può tranquillamente smontare, rimontare, cambiare anche quella che è la cover principale, perché ognuno può scegliere anche chi del gruppo, non so, gli fa più piacere vedere, non so, Giuseppe, mette Giuseppe. Fa più piacere vedere Ottavia. Ecco, ad esempio io metterei Ottavia. Esatto, è la più gettonata. Esattamente. E poi naturalmente anche Francesco, anche l'altro Francesco, Francesco Bresciani, se non sbaglio, sì. E poi Francesco Zini e Ottavia Marini, poi Enrico Brugali o Brugali, adesso Brugali, bene, e Giuseppe Falco. C'è una cosa che, a proposito del divano, io ho letto da qualche parte, non so se sia vero, che suonate sempre seduti, è vero oppure no? È assolutamente vero. Ah, perfetto. E perché, oltre il discorso del divano, sì, ma perché suonate sempre seduti? Alla indiana, possiamo dire. È un po' un affronto al pubblico. dimmi. Deve parlare anche l'Ottavia, non ha mai detto una parola. Ci metti un po' in difficoltà, diciamo che... Allora, io per forza devo suonare seduta perché suonando le tastiere. Certo, d'accordo. E usando pedali... così. Non lo so, forse proprio per ricreare questo... Il discorso del divano, del salotto. Del salotto, esatto, sì, riportare durante i nostri concerti l'idea di qualcosa di accogliente, qualcosa di caldo. E quindi ecco, la sedia e il divano rappresentavano al meglio, con pochi mezzi, quello che è l'idea del salotto. Certo, certo. Io ricordo un Battiato molti anni fa, Flavio, qui al nostro Teatro Più X... Sì. Una volta si chiamava Teatro PX, che suonava proprio seduto, lì a una tastiera. Era il tempo di Monsieur le Gladiator, quindi sai, quella suite di 15 minuti da una facciata all'altra, e lui suonava seduto chiaramente con una tastiera, su un tappeto rosso, ma si parla di molti anni fa. Era un po' sperimentale. La vostra musica non è sperimentale, è più d'atmosfera in alcuni momenti, più che sperimentale, non so se siete d'accordo. Sì, soprattutto per quanto riguarda le canzoni. Esattamente. Soprattutto per quanto riguarda le canzoni di questo album. Giustamente. Però prima forse era un po' diversa. Forse era prima un po' diversa, dopo probabilmente sarà diversa ancora. La mutazione ci caratterizza, nel senso, non ci piace rimanere fermi, e quindi questa scomparire in 11 semplici mosse, diciamo che fotografa una fase. Il prossimo nostro disco ne fotograferà un altro, molto probabilmente. Ci state già lavorando sopra? Assolutamente sì. Bene, una cosa positiva, molto positiva. Quindi le idee continuano a viaggiare, insomma. Certo, certo. Allora, visto che continuiamo a viaggiare, facciamo ascoltare ancora un po' di musica da questo lavoro che ci sono venuti a proporre i Triste Colore Rosa. Abbiamo questa volta la traccia numero 6, che si intitola Come le balene. Ok, allora l'ascoltiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Decidere quando respirare e quando non farlo, quando non farlo. Radio Veneto. Gli appuntamenti. E noi siamo qui assieme ai Triste Colore Rosa per la presentazione di questo lavoro che si intitola, ha un titolo davvero particolare, Scomparire in 11 semplici mosse. E tra altre cose, nella, sempre in quella copertina che si può, come dire, intercambiare, ho visto che c'è una cosa davvero curiosa e l'ho riscoperto ascoltando proprio questo pezzo. Ci sono molti modi di dire, appunto, filosofici nella parte terminale delle vostre didascalie, diciamo. Sono frammenti di testi e quindi quello che diceva adesso, non è la fine il luogo migliore da cui partire, tanto per citarne una, e poi ce ne sono altre 5 molto importanti, altre 4 molto importanti che comunque vengono riprese anche nei testi delle vostre canzoni. Sì, poi c'è una recensione molto bella che devo citare, che io sono un abbonamato al mucchio da tanti anni, dobbiamo citare la recensione che ha fatto Hamilton Santiana nell'ottobre del 2010. Ha detto una cosa giusta: gli arrangiamenti di questo album sono felicemente internazionali e mostrano una band che non ha paura, e questo è importante, di usare le chitarre e usare la struttura strofa ritornello per paura di essere banali. Questa è una cosa giusta, positiva, ha identificato, ha fotografato quello che voi musicalmente siete in quel momento. Dopo chiaramente ci saranno delle evoluzioni. Cosa di te? O dici Francesco 1, Francesco 2, vai, uno dei due, o se no l'ottava può parlare come volete. Ma diciamo che comunque come punto di partenza non vogliamo mai essere né vincolati da una struttura né per forza stravolgere quello che è l'idea di un pezzo, quindi la tendenza dalla strofa a un ritornello. In questi pezzi sentivamo che era giusto strutturarli in questo modo e così sono stati poi composti. magari su altri pezzi, quelli più nuovi, quelli in evoluzione, abbiamo anche un po' variato, sì, un po' stravolto questa struttura. Ma musicalmente, tecnicamente, abbiamo già parlato, ma tecnicamente come nasce un pezzo vostro? Da un giro di chitarra, da un giro di organo, non so. Allora, dipende un po' dal pezzo, però solitamente Francesco Bresciani, il cantante e colui che scrive il testo di una canzone, arriva con un testo e un'idea musicale, per quanto riguarda soprattutto questi pezzi, questi qua, sì, dell'album. Dell'album, sì. E sulla chitarra di Francesco iniziamo a modellare quello che è appunto poi un arrangiamento. Cerchiamo anche di capire, anche a priori, prima di suonare, cosa vogliamo trasmettere. Ci ragioniamo parecchio sui pezzi. E poi un lavoro corale. Ho capito. Ci lavoriamo tutti. Il testo e di tutti Francesco. Aiutano tutti, nel senso, certo, che magari a me piace un'idea del basso, cerco di tirar fuori il chitarrista. Di spronare, dice, Francesco. Ma vai, ma prova a fare questa cosa. Quindi è davvero molto, molto collettivo come lavoro. Giusto, una cosa. Quindi da un testo si sviluppa. Diciamo che con le nuove evoluzioni sono partiti anche dei momenti un po' magici in sala prove, e da questi momenti magici poi si è creato a posteriori un pezzo, cioè scusi, la parte testuale della canzone. Cioè, quindi siete provati prima la musica, poi il testo in qualche momento? Allora. In qualche momento sì. Ho capito. Possono confermare? Assolutamente, confermiamo. Bene. Se io vi dico la parola concorso, come reagite? So che i concorsi aiutano a volte. Ma a volte no. A volte no, ecco. Dipende. Sì, dipende da quale concorso. Ad esempio, Emergenti 2010. Emergenti 2010 è stata una bella esperienza. Anche perché ci ha permesso di confrontarci con quello che è un media che non conoscevamo, che è la televisione, seppur a livello locale. Quindi la valutiamo come un'esperienza assolutamente positiva. Poi certo, se mi parli di concorsi, ma proprio a livello personale storco un po' il naso, perché spesso sono solo occasioni per spillare soldi a musicisti che magari hanno delle mire, ma che in realtà vengono un po' sfruttati per organizzare un evento e fare due soldi. C'è concorso e concorso. Dove anche l'artista deve pagare pur di farsi vedere, certo. L'artista purtroppo, sì. La tendenza è quella che paga l'artista, non paga più chi fruisce della musica ultimamente. Purtroppo non viviamo in un'epoca bellissima per quanto riguarda il mercato, soprattutto musicale. Anche se devo dire che c'è tanta gente che suona, tanta gente che vuole dire qualcosa nel quello che è il fitto sottobosco musicale, e naturalmente voi che state emergendo da questo sottobosco, sapete, siete ben a conoscenza di come si vive sotto, diciamo. Beh, il bisogno di esprimersi non morirà mai, fortunatamente. Quindi ed è bello che venga stimolata la gente ad esprimersi con i mezzi che ha, tra i quali anche la musica. Poi certo, dal sottobosco è bello anche che escano le proposte più interessanti. A Bergamo ha numeroso sottobosco, tanti gruppi, sì, interessanti. È vero. Che girano intorno, che fanno le cose positive, che cercano di farsi sentire. Non è facile, come tu hai già detto, è difficile trovare qualche posto per suonare, però si deve tentare, si deve continuare a tentare. E bisogna lavorare soprattutto, certo, perché sì, comunque senza il lavoro non si migliora quella che è una proposta musicale che magari già di partenza è valida. Certo. E soprattutto è molto complesso anche trovare gente che crede ancora prima di prendere mano alla vostra musica, no? Quindi mi riferisco alle varie etichette, alle distribuzioni, a tutti quelli che mettono le mani in quello che è il vostro delicato lavoro e che rischiano in un certo senso anche di frantumarlo mettendoci troppo le mani. Beh sì, bisogna sempre stare attenti a non... Da una parte non farsi influenzare troppo, ma dall'altra le persone che esternamente danno una mano a un progetto in modo sincero sono veramente importantissime. Noi ci siamo stati aiutati da molte persone in quest'anno, aiuti di vario genere, dai più specifici ai più generici, da chi ci dà una mano a trovare date per i concerti, ci dà una mano proprio dal punto di vista artistico, fino alle persone che proprio si mettono al banchetto durante i concerti e vendono i CD, cioè sono tutte persone che... noi ringraziamo tantissimo, a cui siamo veramente grati al 100%, perché non è mai scontato, insomma. Bene, Bene, allora diamo spazio ancora un po' di musica dal vivo, visto, ne approfittiamo, visto che avete gli strumenti a portata di mano, quindi Ottavio le tastiere, Francesco alla chitarra, Francesco al basso. Cosa ascoltiamo di queste mosse per scomparire? Ascoltiamo la seconda mossa del disco, che si intitola Che tempo domani. Ed eccoci qua ancora con il triste colore rosa, scomparire in 11 semplici mosse, si intitola il lavoro che ci stanno proponendo. Questa era la traccia numero 2, Che tempo domani, con il punto interrogativo. Pezzo molto raffinato, una ballad molto raffinata secondo me questa qua, molto più quieta, un po' molto più malinconica del brano iniziale che come avete cominciato con molta grinta. È raffinata e cerca di avvolgere, di circondare musicalmente. Cosa dite? Siete d'accordo? Sì, sì, assolutamente. Quello era l'idea della canzone, di creare qualcosa di raffinato e di avvolgente allo stesso tempo. Esattamente. La strumentazione prettamente acustica che abbiamo stasera, però dà l'idea, nonostante tutto. Dal vivo, io ho letto che dal vivo avete un'attrice che sale sul palco. Come mai un'attrice che sale sul palco? Ho letto questo nelle cronache. È così o non è così? O era così un tempo? C'è un'attrice e c'è anche un attore. Ah, bene. C'è l'arte ancora praticamente. Sì. Ci piace un po' la sinergia delle varie arti, certo, nella nostra musica. E ecco, sono forse gli ospiti immaginari del nostro salotto che si calano nella musica e appunto nel salotto per vivere una vicenda o esprimere anche loro se stesse attraverso l'arte. Che fanno, quindi recitare qualcosa. È nata un po' per caso, e vedendo comunque riscontro anche positivo nel pubblico. Un'idea nuova, giusto? Esatto, l'abbiamo portata avanti. una volta si usava molti anni fa, beh Flavio lo sa che è un po' più anziano di voi, non anziano come me, si usava il cosiddetto reading, cioè praticamente sì. queste parlate, letture, queste letture sì. intervallate sì. dalla musica, chiaramente. La musica però era in secondo piano, stavolta la musica è in primo piano, è diverso. Secondo me i reading si usavano negli anni 60, soprattutto negli anni 60. Ricordo il famoso Giampieretti, ti ricordi? Sì, Giampieretti, che usava spesso e volentieri. Lui ha presentato grandi scrittori americani. Era l'epoca di Giampieretti in Italia, l'epoca di Donovan, quindi molti anni fa. E la vostra dimensione è diversa, cioè la musica da cioè l'attrice viene sul palco, ma è la musica la protagonista. Sì. Fondamentale. Diciamo che lei, l'attore appunto dà quella sfumatura in più al pezzo, ma non è la musica appunto che accompagna, no, esattamente. Un gesto, è l'attrice che accompagna la musica in questo caso. Bene, bene, una cosa positiva secondo me. Allora, per conoscere qualcosa di più dei Triste Colore Rosa si può accedere anche al vostro sito internet. Qual è il punto finale, mi sfugge? tristecolorerosa.com. Eccolo là, perfetto. Bene. No, perché rischiavo di dire il sì, punto it famoso, sito internet, so, sì. Facebook, sì. MySpace, tutto collegato, cioè. Esatto. Tante cose. Il vostro tristecolorerosa.com è formato da tre parti assolutamente interessanti. Una prima parte riservata alla musica, esatto. Una seconda parte, vuoi spiegarmelo, parte, Francesco? Una prima parte riservata alla musica, quindi a quello che è il progetto gruppo, il progetto Triste Colore Rosa Gruppo. La seconda parte invece è riservata a un social network di poesie che dei nostri amici e collaboratori ci hanno aiutato a sviluppare, hanno sviluppato, nel quale ogni utente può registrarsi e inserire i propri scritti, poesie o stralci. Quindi l'argomento poesia citato prima con Ungaretti ritorna sempre, oltre nei testi delle canzoni che stiamo ascoltando. Assolutamente, come dicevamo, ci piace l'idea di avere a che fare con la poesia. La poesia, che è un genere letterario che sembrerebbe morto, nel senso, come genere letterario tout court, oggi come oggi non ha una casa, non ha una sede, cioè non si vende, quasi, la poesia non si vende quasi più, non ci sono più dei grossi poeti come potevano essere quelli dell'Ottocento, dei primi del Novecento. Secondo me la poesia non è morta, ma viaggia su altri binari. Uno può essere il social network, e noi abbiamo voluto appunto sfruttare la rete proprio per far sì che essa diventi veicolo di poesia. L'altro modo, ovviamente, secondo me, è la canzone. Che poesia, la canzone, assolutamente. Esatto. Beh, la poesia messa in musica, esatto, diciamo, sì. Diciamo così, diventa la canzone. E, perché adesso avevo visto molti fruitori di poesie che sceglievano sempre comunque autori, come dicevi giustamente tu, Francesco, dell'Ottocento, mai troppo contemporanei. Vedi soprattutto Baudelaire, che va per la maggiore, la Fleur du Mal, che deve aver venduto milioni di copie, oserei dire, sia nella fruizione francese sia in quella internazionale, tradotta anche in italiano, giustamente. Esatto. Beh, secondo me i poeti oggi, se ci mettiamo a cercare i nomi di grossi poeti vivi e contemporanei, facciamo molta fatica. Certo, è verissimo. Forse è più facile tirare fuori persone che fanno poesia tramite altri mezzi, sì. Magari la videoarte, il cinema, la musica. Forse la poesia sta semplicemente cambiando media. Sì. Bene, allora noi facciamo ascoltare un'altra poesia. Abbiamo poesia in musica. Abbiamo un altro pezzo da far ascoltare da disco. Mi pare che ci sia il 3. No, l'abbiamo ascoltata. Sì. La numero 6 l'abbiamo ascoltata e la numero 1 pure. Per cui adesso cosa tra ascoltiamo? L'altro è un brano che abbiamo suonato prima dal vivo e la facciamo sentire in versione LP. Benissimo, quindi ce la ascoltiamo io e di fronte me. Blu Radio Sera. lasciati guardare gli occhi che Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, siamo tornati ancora con i Triste Colore Rosa. Ci siamo ascoltati un altro pezzo, io e di fronte a me, che avevamo ascoltato prima nella versione live, e abbiamo conosciuto anche come invece le cose vengono fuori in studio. Maurizio. Eccoci qua, scusate, avevo dimenticato di sì. Il famoso tasto rosso. Abbiamo parlato, io ho letto sempre nelle vostre biografie che avete conosciuto personaggi di un certo tipo come Franco Mussida. Franco Mussida, leader della PFM, più che leader, persona carismatica che ha una grandissima scuola a Milano di chitarra e non soltanto di chitarra. Quella di Mussida è un po' una scuola di vita. Ecco, parlami un momento di Mussida se hai voglia, un secondo. L'occasione per incontrarlo è stata la nostra partecipazione a Sanremo Lab di 2 anni fa, che è una sorta di concorso preludio al Festival di Sanremo. Concorso e scuola della durata di una settimana, nella quale appunto vari artisti possono confrontarsi con colleghi di ovviamente fama e importanza maggiore. Tra arrangiatori, musicisti, parolieri, il tutto coordinato appunto da Mussida, che era un insegnante veramente favoloso. Ripeto, una scuola, la sua è una scuola di vita più che una scuola di musica. Certo, certo, quindi è un personaggio di grande valore, di grande tecnica. Di grande tecnica, di grandissimo carisma, esatto. Di conoscenza incredibile, un'esperienza arricchente al massimo davvero. Diceva un musicista famosissimo nell'ambito inglese, di alcuni anni fa, che lui amava particolarmente la PFM e amava particolarmente il modo di suonare la chitarra di Franco Mussida. Era uno dei Gong, te lo ricordi i Gong? I Gong, sì. Ecco, i Gong, dove c'era David... esatto. Aspetta, come si chiamava? David... Adesso mi viene in mente, mi ricordo la formazione Gong, che sì. Una formazione straordinariamente fuori... di tutti i connotati, ma bravissimi. Il Canterbury visto e corretto da loro, quindi Gong è un dove po' c'era po'... la Flying Teapot nella versione 1, nella versione 2 e poi c'era i Gong amavano particolarmente questo, cioè il leader di Gong, uno dei leader, amava particolarmente il modo di suonare di Franco Mussida. Beh, la PFM è stata tra le prime band italiane a rifarsi oltre che una tradizione italiana anche un ascoltare fuori dai confini. È vero. Non era una cosa scontata. No, assolutamente. Quindi... E poi tra le altre cose sono stati tra i pochi gruppi a riuscire a sconfinare in un certo senso. Esatto, nei Billboard sono arrivati i primi 200, in America non è mai successo, escludo Modugno, ma Modugno è un'altra dimensione, però loro sono arrivati nei primi 200 in America e sai, arrivare ai primi 200 in America non è una cosa semplice per un gruppo italiano. Che si cantava in inglese perché le versioni in inglese le hanno fatte, però era una bella cosa, cosa dici, frate? Sì, certo, premiata Forneria Marconi, abbreviata PFM, triste colore rosa, abbreviato TCR, vi chiamano anche così? Sì, benissimo. Allora, TCR, triste colore rosa, tra altre cose, molti, molti spazi riservati alla musica rock e non solo, vi hanno riservato assolutamente commenti positivi. Vediamo anche su Spazio Rock, ancora da fuori del mucchio, avevamo ricordato forse prima, sì, con Hamilton Santiago, esatto. Poi ancora in Rumore, Beat Magazine, Saltinaria, Blow Up, e anche nelle riviste, quelle online tipo Rocket, c'è molto su di voi, quindi assolutamente dovete essere fieri e orgogliosi di questa cosa. Lo siamo. Benissimo. Quindi avete allora, seminato, sì, bene, questo voglio dire. Sì, è bello che comunque la musica semini lei stessa per dare i suoi frutti, insomma. Certo, certo. Bene, allora diamo un altro brano live, sì, se esatto, siete d'accordo. Sì, sì, cosa facciamo? Facciamo un brano che si intitola Mio padre è un albero. Ok, benissimo. Blu Radio Sera. Un'altra traccia di Scomparire in 11 semplici mosse. Sono con noi ancora i Triste Colore Rosa, e questa è una canzone un po' triste, un po' forse d'accusa, diciamo così. Mio padre è un albero. Come mai questo rapporto così strano, così anche a volte risulta dalla voce anche un po' violento? In realtà è un pezzo su un argomento molto delicato, che è quello della malattia e del rapporto che certe persone vengono a trovarsi con delle persone a loro molto care afflitte da una malattia piuttosto importante, forte. È una tematica molto delicata, molto difficile. Volevamo confrontarci tramite la forma canzone con questo tipo di argomento. La nostra speranza è quello di aver fatto qualcosa di che arrivi e che non risulti troppo, diciamo così, specioso, insomma. E musicalmente qua l'avete fatto, c'è stato un momento nel pezzo che è molto bello, anche musicalmente parlando, che il basso di Francesco incalzava e voi due, c'era un vocalizzo unito di voi due che dava un risconto, poi il basso incalzava sempre di più, poi il pezzo si è allargato un'altra volta. Questa è una cosa positiva, anche un bel effetto anche musicale, secondo me, importante, già il testo è importante, doveva dare questo riflesso qua, in questa maniera. È bello che tu abbia ascoltato così attentamente il brano e ci riporti queste impressioni. Sì, io l'ho sentito così, io l'avevo già sentito chiaramente, però così in questo momento, che è un po' diverso dal disco, ed è giusto che sia così, che musicalmente di solito in live è leggermente diverso, alcuni dicono, però essere troppo diverso non è un rischio, non so se siete d'accordo in questo voi. Sì, è una carta rischiosa. È una carta rischiosa che ci possono anche allontanare certi ascolti per questo, però si deve trovare, si deve rischiare, e questo è stato un rischio calcolato nel senso positivo del termine. Bene. Okay. Siamo sempre all'interno di Blu Radio Sera, piacevolmente conversando con i Triste Colore Rosa. Adesso vogliamo sapere qualcosa di più da loro, ovvero quelli che sono i loro gusti musicali, le loro provenienze, il loro modo di entrata nel mondo della musica, facendo una piccolissima lista formata da tre personaggi o da tre album che più vi sono piaciuti nel corso del tempo. Potete dire anche quelli che vi piacciono in questo periodo, perché immagino che in un lasco abbastanza lungo di tempo si siano ascoltati e poi lasciati certi artisti in favore di altri. Com'è stato il vostro percorso? Cominciamo da Ottavia. Allora, io mi sono appena laureata in pianoforte in conservatorio, ecco. Quindi la mia formazione è prettamente classica, anche i miei gusti sono per lo più nel mondo della musica classica. E quello è il pianista che più ti fa... Michelangeli, Arturo Benedetti Michelangeli, che come cavalli di battaglia aveva... autori come Debussy o Ravel, quindi tutto il mondo francese di fine 800, che appunto volevo dirti rientra tra i miei preferiti come tipologia di musica e di ascolto e anche di esecuzione, visto che ho studiato tanto pianoforte. E poi niente, vuoi sapere anche gli altri due pezzi? Sì, sì, certo. certo. Non lo so, non riesco tanto a delineare perché tre sono proprio troppo pochi. Però sicuramente è tanto il mondo classico. Un artista che amo è Björk. Ah, bene, bene. Fantastica. Quel mondo, quindi essendo Björk un personaggio eclettico, mi piace la musica che sia il più eclettica possibile. È poco canonizzato, poco... E Björk non è assolutamente canonizzata. Già all'epoca col suo gruppo, adesso proprio fuori di tutti sì, i canoni. No, è un album dei miei preferiti di Björk è Medulla. Un album registrato interamente da voci umane, sì. Dove sono stati ricreati anche dei suoni che sembrano acidi elettronici, solo con voci umane. E questa è sicuramente un altro mondo che mi appartiene. Solo in Islanda succedono queste cose. Sì, esattamente. Non sanno cosa fare la sera. Solo quello. E si costruiscono questi dischi. Bene, il terzo, Ottavia. Oddio, il terzo. Mamma mia. Dai, uno di circostanza è Radiohead, sì. Dai, diciamo che... Radiohead, di circostanza. Ma quale di Radiohead? Visto che dovevamo citarlo. In Rainbow? Ma guarda, non saprei. Computer ok? Computer ok, sì. Ecco. Traccia 8. La traccia numero 8 l'abbiamo anche specificata. No, pensavo che, visto appunto un po' di pianoforte, c'era qualche divo del jazz di questo periodo. No, sinceramente no. Jazz no. No, Keith Jarrett no? No, preferisco le cantanti. Billie Holiday. Ah, vedi, quindi quell'altro mondo. Ha già escluso. Bene. Sì. Vabbè, adesso tocca a Francesco. Allora, la mia vita da adolescente è stata cambiata dai Nirvana, da Jeff Buckley, dai Radiohead. Ah, come perfetto. Molti adolescenti. Perfetto. Poi ho veramente ascoltato di tutto, molto rock, indie rock, americano-inglese, però poi ho scoperto i cantautori italiani, ho scoperto il jazz, la classica. Ecco, i miei ascolti sono ancora molto sul rock, indie rock, però ecco, ascolto veramente di tutto. Se posso dire un disco che mi è piaciuto tantissimo dell'anno scorso, è quello di John Grant, non so se lo conoscete, sì. Queen of Denmark. Sì. Secondo me è il disco veramente con dentro un'ispirazione dal punto di vista del songwriting favolosa. E una mia curiosità, in Nirvana, quale disco di Nirvana? Oltre a Nevermind? Lo shock è stato quando ho ascoltato Smell Like Teen Spirit. Ah, quindi Nevermind. Tantissimi adolescenti. Certo, il mio certo. disco preferito di Nirvana rimane l'Unplugged, sicuramente. Ah, ok. L'Unplugged, perfetto, certo, bellissimo. Certo, che racchiude un po' tutto il percorso dei Nirvana e lo fa sentire in una maniera davvero diversa, un po' più, come dire, un po' meno freddo nelle sue interpretazioni. Ci svela un Cobain grandissimo autore, non soltanto un maltrattatore di chitarra. Ecco, questo è vero. Sì. E David Grohl, una che suonava la batteria un po' più calma, perché adesso con Foo Fighter, disco nuovo, durissimo, è andato oltre di tutte le previsioni possibili col disco nuovo. Sì, in effetti me l'hai fatto ascoltare, è Maurizio, durissimo. Foo Fighters è piace moltissimo perché è durissimo, cioè è ritornato alle origini vere e proprie del suo modo di far musica. Vabbè, tocca ancora a Francesco al basso. Anch'io, vediamo. Anche io come Ottavia ho iniziato con gli studi classici di chitarra classica. Sì. Se posso citare un chitarrista classico che mi è piaciuto molto e che tuttora ascolto, Leo Brauer. Non so se... No, non lo conosco. Okay. Io non lo conosco, ma mi documenterò subito. Certo, ecco, sì. E niente, poi anch'io la fase adolescenziale, come Francesco, ho ascoltato Nirvana, ma anche musica rock italiana. Quale? Litfiba. Ah, però, quale di Litfiba? Ti ricordi qualche titolo? Ho iniziato ad ascoltarli da Terremoto. Ah. E poi sono andato indietro. La trilogia e poi sei ritornato indietro, chiaramente. Esatto, e i nuovi, cosa ne dici? Dei nuovi, cioè i riformati, scusa. I riformati, sì. Sono riformati. No, va bene. Sono riformati. Sono riformati. L'importante è che anche Francesco sappia che si sono riformati. Sono ancora in Litfiba, dai. Certo, sono ancora in Litfiba e si sono riformati per quello, per essere ancora in Litfiba. Però secondo me Francesco, come molti altri, non è proprio d'accordo in queste reunion che sono fatte forse a volte anche solo per i soldi, no? Spero non sia solo per quello. Insomma, in realtà penso insomma, che non so. Del dubbio, sai, i malini dicono che Piero Pelù era in fase calante, l'altro co-leader non era proprio in fase, cioè proprio era completamente sparito. Parlare male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca. Certo. Dico i maligni, io ho solo letto le critiche. In ogni caso, sono ritornati alla grande, concerti sold out dappertutto. Il nostro disco nuovo verrà fuori fra poco. Quindi, insomma, ok. Bene, cosa tocca adesso? Un brano in studio o un brano al vivo? Sai che non lo ricordo. Facciamo un brano dal vivo. Brano dal vivo, così tanto per non sapere né leggere né scrivere. Ok, cosa ci proponete in questa serata? Triste colore rosa. Vi proponiamo un brano che si intitola Mara Cannibale. Cannibale. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E qui in questa canzone non c'era solamente Mara Cannibale, ma c'era anche Vale che mangiava assieme a Mara, ma non la stessa persona però, vero? Due persone diverse. Due complici, quindi Mara Cannibale, questo è una delle scomparire in 11 semplici mosse, quindi una delle mosse che ci propongono i Triste Colore Rosa. Allora, quali sono i vostri prossimi appuntamenti live Triste Colore Rosa? Il 27 a Corsi. Aspetta. Il 27 luglio sicuramente. Sì. A Solza. Ecco, mi ha ricordato Solza. A Solza, che si trova in provincia di Bergamo. In provincia di Bergamo. Qualcosa nel Veneto da regalarci, no, ragazzi? Diciamo che noi veniamo da un anno di parecchie attività live. Quindi, ne abbiamo fatti diversi anche ultimamente. Quello di Solza chiude un po' una piccola tournée che è partita. Una piccola tournée estiva dell'estate scorsa che poi si è trasformata in invernale a partire da questo gennaio e si conclude con questa data. Insomma, chiudiamo un anno di concerti molto, molto intenso e dopo questa data ci dedicheremo al disco nuovo. Sì. Una cosa volevo chiederti, a proposito di concerti, questo pezzo che è molto vigoroso, molto potente, anche tu attacchi cantando, secondo me, una voce proprio forte, come lo fate dal vivo? Adesso siamo in tre in versione pseudo acustica, anche se è stato forte questo pezzo, molto gritoso, con molto groove. È ancora più forte. È ancora più forte. C'è una batteria che martella. Esattamente. Ed è un pezzo che deve martellare. È giusto che sia così, è vero. Deve essere violento nel senso positivo del termine, esatto. Deve scuotere, far muovere la gente. Bene. E quindi salutiamo anche Giuseppe e Enrico che nella sezione live regalano assolutamente la loro personalità, no? in blocco. Fate casino, insomma. Caspita, sì. Poi loro due sono veramente l'ala casinara della band. Esatto. È quello che ci vuole. Seduti, ma... Assolutamente. Ma si fa rumore. Invito le persone a seguire i nostri concerti proprio per vedere questa energia seduta che cerchiamo di sprigionare sempre dalle nostre fantastiche sedie rosse. Bene, c'è la possibilità nel disco, cioè nel live, di allargare, di fare delle piccole jam session oppure no? Di andare così avanti, non finire un pezzo, per esempio questo qua, si può ripetere all'infinito oppure no? Oppure ci sono dei tempi da stabilire? I nostri live sono abbastanza ben studiati dal punto di vista dell'architettura, della scaletta, eccetera. Non è detto che non ci lasciamo andare in introduzioni o code soniche. Volevo dire questo, intendevo questo, perché dal vivo spesso capita che qualche volta c'è la possibilità, libertà, per esempio del batterista, di andare, di favoleggiare sulle bacchette. Insomma. Capita. Capita. Di fare il suo assolo caratteristico, magari, tanto per farvi pigliare un po' d'acqua, di solito il batterista riempie questi vuoti. Bene, direi, visto che sono 11 tracce, ne ascoltiamo un'altra. Cosa scegliamo? Possiamo scegliere anche una un po' lunga? Sì, certo, come no? Sì. Gioia di cera? Forse voi non ci crederete, ma il lettore, ascoltandovi, era già programmato sul numero 8. Allora, destino. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E jusqu'à la période antique, dit Benveniste, rhythmus ne signifie jamais rythme et n'est jamais appliqué au mouvement régulier des flots. Come stare seduti, composti, seri, senza muoversi? Non è il caso di scomporsi, non c'è alcun motivo valido. We'll be right back. vuoi. Che ne sarà di me? Se già Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed ecco qua, ci siamo ascoltati anche Gioia di Cera, e proprio la cera dava l'ultimo effetto quasi a sciogliersi per terminare la canzone, perlomeno ho voluto intenderla così. Non so se Triste Colore Rosa, che sono qui con me e sono qui con Maurizio, possono confermare questo messaggio finale ancora prima di quello iniziale. Oh, anzi, hai dato un valore aggiunto veramente alla percezione del brano, grazie. Grazie. Allora, questo Gioia di Cera, di cosa narrava? È uno di quei testi che non vogliono dare dei riferimenti troppo precisi. Parla di quelle situazioni nelle quali si ha tutto e si scopre che forse ci manca qualcosa. Ho capito. La musica cioè dà lo specchio al testo. Cosa possiamo dire questo, secondo te? Che deve essere così. Mm. Deve essere, come diceva Ottavia prima, riguardo al nostro metodo di realizzazione dei pezzi, è vero, ci sono delle volte in cui c'è un testo e la musica si adatta a lui e ci si costruisce intorno. capita invece anche il contrario, nel senso che la musica dà un input per la composizione del testo, però deve esserci sempre un rapporto bilaterale e un'armonia che poi è un valore aggiunto per chi poi fruisce l'opera. Posso dire che questo pezzo può essere il congiunto, può essere il riassunto di tante idee che poi si sono sviluppate in questa maniera, soprattutto nel finale, che ha un certo senso, come diceva giustamente Flavio. Un finale, che l'effetto come è stato fatto di questo finale, voglio saperlo. Te lo può dire Francesco dimmi detto. Francesco ha parlato poco Francesco l'effetto, no. L'effetto è creato tramite un pad elettronico un tappetino. E simula il vento e con dei delay, dei riverberi, crea appunto questo vento avvolgente Un po' pseudo psichedelico, possiamo dire questo, sì. Leggermente, io amo molto la psichedelia, tiro fuori sempre questo vezzo, però in ogni caso esiste. È sempre dei remind. Esatto, rimandi a una certa età, però sono remind positivi, servono secondo me. Perché gli anni 60 non sono mai scomparsi nella musica. Beatles, tu hai citato la cover che fate dall'album bianco, anche quello è puro divertimento, ma non è divertimento per modo di dire. Tra altre cose, merita proprio di vedere Triste Colore Rosa interpretare, e questo si può vedere all'interno delle varie di vari filmatini di YouTube. Ah sì, è vero. C'è la vostra interpretazione, la cover appunto di quella canzone dell'album bianco dei Beatles dell'ottobre del 68, dal titolo Dear Prudence, che era quella canzone dedicata alla sorella di Mia Farrow, tra le altre cose, la famosa Prudence Farrow, che aveva un nome un po' più lungo, però adesso citarlo tutto per esteso mi diventa difficile. Che si era rinchiusa e non usciva più dalla sua stanza perché era intrippata con tutte queste filosofie orientali. Sì. E John Lennon, appunto, ha cercato di esaltarla a uscire dal mondo reale. Dopo che era stato lui, o forse George Harrison, a farla entrare. Esatto. In quel periodo là ci finivano tutti prima o poi dagli indiani, no? Sì, diciamo che Ringo Starr si era stancato in una settimana. Sì. Lennon e McCartney sono durati un po' di più, ma poi tutti si sono stancati. È vero, sì. Cioè, George è rimasto. George, però. George sì, forse era il più appassionato. Solo appassionato. Perché si era prenotato i corsi di sitarra. È vero, sì. No, in realtà ha avuto un percorso un po' più, come dire, spirituale, un po' più acceso rispetto agli altri. È stato il mistico della band, nonostante, anche dopo, chiaramente, vedi Concert from Bangladesh, vedi altre cose che aveva fatto prima, all'inizio di carriera, cioè carriera solista, chiaramente. È stato un po' mistico, va bene che sia così, ci voleva anche il mistico dentro i Beatles, chiaramente. Allora, ricordiamo ancora una volta, per conoscere qualcosa di più dei Triste Colore Rosa, i TCR, come li abbiamo anche chiamati, basta andare nel loro sito tristecolorerosa.com e cliccare in una delle tre sezioni, quindi nella sezione Triste c'è la parte musicale, poi nella sezione Colore c'è la parte delle poesie, e nella parte R cosa pensate di sistemare? Ma l'idea era quella di una sorta di shop con gadget, cose anche un po' particolari, però non l'abbiamo ancora sviluppata appieno. Capito. E musica, cioè dal punto di vista proprio fisico, come posso avere il disco se uno vuole acquistare un disco, il disco vostro? Beh, la distribuzione nostra è online, quindi vari iTunes e Amazon. Il disco nostro si può avere anche fisicamente, dovete chiedercelo e ci si mette d'accordo, noi lo spediamo. Il prezzo è molto contenuto. Fate voi la spedizione. Il prezzo è molto contenuto, quindi basta contattarci tramite il sito oppure tramite Facebook. Facebook è forse ormai è il punto di riferimento più alto nel web, quindi in Facebook ci trovate e potete anche interagire con noi. Autoprodotto in ogni caso il disco? Autoprodotto, sì. Con la distribuzione? Distribuzione, come dicevo, online, quindi, sì, iTunes, esatto. Amazon e tantissimi altri siti. E la versione fisica, della versione fisica ci occupiamo noi, ai concerti oppure via corrispondenza. Riepiloghiamo l'ultima data che dovete fare fra poco, Ottavia. A Solza. A Solza. La data esatta del giorno? 27 luglio. Bene, se siete da quelle parti, allora non perdetevi l'appuntamento con i Triste Colore Rosa. D'altre cose, nel vostro disco ci sono anche alcune partecipazioni importanti. Vogliamo ricordare anche gli altri artisti che hanno partecipato con voi in questo disco? Beh, c'è la collaborazione di un team di persone più che di altri artisti. Sono nessuno di particolarmente conosciuto, ma persone competenti che ci hanno dato una mano sia nel suonare, sia nell'arrangiare, sia nel registrare, sia nel mixare. Quindi veramente un grande grazie a Inve, ad Amerigo e soprattutto che ci hanno veramente dato una grossa mano. Quindi senza di loro il disco non sarebbe uscito bene come è riuscito adesso. Non sarebbe, sarebbe diverso. Sarebbe diverso, chiaramente. Bene, allora abbiamo spiegato tutto, come entrare in possesso del disco, quelle che sono le prossime date per vedere Triste Colore Rosa live. L'ultimissima cosa che dovevamo dire già in partenza, non abbiamo mai citato Marlene Kunz e la vostra compartecipazione a un concerto. Voi avete suonato prima di Marlene Kunz? Sì, poco tempo fa, era il primo luglio. Sì, esatto, quindi, il primo luglio. Ah, quindi da pochissimo praticamente. Sì. Come sono i Marlene Kunz come band, secondo te, secondo voi, musicalmente parlando? Dal mio punto di vista personale. Io sono stato un grandissimo fan di Marlene Kunz fino a qualche anno fa. Fino a il disco che si intitolava Senza Peso. Sì, capito. Poi sono leggermente cambiati. Secondo me la loro ispirazione è un po' calata. Sono leggermente cambiati. Godano è sempre bravo, però ha leggermente tirato il freno, nel senso musicalmente. Leggermente è un po' cambiato, forse. Sì, però secondo me un po' la qualità è un po' andata. È un minore rispetto agli album prima, che secondo me sono grandiosi. Quindi certo, per me, io sono stato veramente un grandissimo fan di Marlene Kunz. Perfetto, ok. Perché sono partiti già dall'apice, sì, loro. Esattamente, sono partiti molto forte subito. È difficile poi, come dire, riprocreare una cosa che vada al giusto livello di una precedente se è già fatta benissimo. Certo, no? Per cui si rischia sempre, si rischia molto. E questo gli artisti lo sanno. Allora, Maurizio, ringraziamo i Triste Colore Rosa per essere stati con noi. Quindi ringraziamo Ottavia, ringraziamo Francesco, ancora Francesco, e chi ci ha, spero, ascoltato a distanza, quindi mi riferisco a Giuseppe e ad Enrico, che sono parte di Triste Colore Rosa. E, allora, rapidamente l'appuntamento per domani sera, Maurizio. E il Radio Fiera abbiamo domani sera. Il Radio Fiera, direttamente da Treviso con Ricky Bizzarro. Ricky Bizzarro, e poi ancora una presenza che è ormai costante. Che non è quello che pensi te. Non viene Simone? No, non viene Simone. Non viene Simone Chivilò, che comunque è parte di Radio Fiera. Domani sì. C'è Michele Tosoni in regia. Chiaramente. Benissimo, allora ringraziamo Triste Colore Rosa, buon rientro, ma prima di rientrare a casa regalateci un'ultima canzone. Sì, vi regaliamo Effimera. Ok, benissimo, Effimera, una traccia fantastica, devo dire. La facciamo in una versione un po' diversa. Va bene. La usiamo per ringraziare noi voi veramente per questa serata, veramente. Lo dicevamo prima anche fuori onda, è molto difficile trovare radio nelle quali si può parlare realmente di musica. Bene, bene. Grazie anche per il complimento. Noi stiamo cercando di portare avanti un discorso live a 360 gradi. E quindi allora, Maurizio, passiamo i saluti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande consueto, ciao, a risentirci. Vi lasciamo con i Triste Colore Rosa. Ancora grazie, ragazzi. In piedi ad un passo il cielo oltre il confine metà fisico di un vetro che non fa trasparire quello che c'è al di là, così vedo l'anima, è così che rimarrà, così vedo l'anima, è così che aspetti, aprila mentre chiudo gli occhi. solo per fotografarti e non c'è paura e non sei più effimera. Tengo chiusi gli occhi ma ti vedo e leni. Tengo chiusi gli occhi ma ti vedo e leni. Ok, un ciao a tutti da Renato, benvenuti come nel consueto all'ascolto di Rock Wave, programma di hard rock e di heavy metal che va in onda ogni martedì sera dalle ore 22.30 alle ore 24, sempre sulle modulazioni frequenza di Blu Radio Veneto. E direi di non perdere altro tempo con queste calure estive, andiamo immediatamente a pronunciare il programma con qualcosa di bruciante. Si tratta di una delle maggiori rivelazioni del periodo estivo, l'album d'esordio di questi Hell inglesi, dall'album titola Human Remains, originariamente doveva uscire nel 1986, varie vicissitudini ne hanno posticipato l'uscita fino ai giorni odierni. Il pezzo che andiamo ad ascoltarci praticamente è questa, Times from the Death Row. Iniziamo praticamente, sono gli Hell con un piccolo intro strumentale molto molto particolare.